fossi ciò, viene lento di vagar, una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questo anno, perlomeno in Italia, termina con una favolosa polemica sui valori culturali del nostro paese, tra apocalittici e integrati rispetto all'unico successo di cassetta di produzione cinematografica italiana che è il cinepanettone. Da una parte chi si straccia le vesti e dice «Dio mio, in che paese siamo?», in cui viene pubblicamente sovvenzionato, collettivamente acclamato un genere fatto di sconcezze, parolacce, comportamenti triviali. Noi non siamo così, forse? O altre persone che dicono, beh, in fondo questo è vero cinema popolare, questo è l'unico coerente racconto di quella che è l'anima e l'essenza della società del nostro paese. Beh, noi abbiamo spesse volte, e di questo ce ne facciamo punto d'onore, celebrato quelle che sono le radici culturali, sono gli antesignani stilistici di quello che oggi viene chiamato il cinepanettone, che è tutta quella produzione cinematografica in Italia, che è sempre stata classificata come cinema di genere, o come B-movie, cioè film di serie B che non appartenevano alla aurea corona di coloro che esprimevano attraverso il cinema le pulsioni sociali, le tensioni culturali, il proprio animo lacerato, ma semplicemente coloro che raccontavano irraccontabili sconcezze quotidiane, ciò che accade sotto i banchi nelle scuole, ciò che accade dietro la porta dei pubblici gabinetti, ciò che accade nelle famiglie italiane, ciò che accade negli uffici, nei seminari, nelle sacrestie, negli alti luoghi del palazzo. Beh, di questi B-movie abbiamo fatto una dotta dissertazione, una classificazione, partendo da quelli di genere scolastico, a quelli di genere boccaccesco, a quelli di genere più raffinato, legati ad altre categorie dell'espressione umana. Beh, oggi pensiamo di fare opera meritoria per farvi riflettere sulle radici di quello che è il dilemma culturale che maggiormente appassiona il nostro paese sul finire di questo anno, ridandovi un colpo d'occhio sul B-movie italiano. Gente che va e gente che viene, gente di tutto il mondo, affaristi e turisti, infedeli e fedeli, mogli e concubine, miliardari e millantatori, agenti segreti e agenti del fisco, magnati e mignote. Buongiorno, madame. Ha fatto un buon viaggio? Ha fatto un'ora di ritardo l'avion. È stata fortunata, si prendeva il treno, ne faceva cinque. Accompagni madame nella stanza. E le bagage? Le bagage? Ma le valigie, non mi portano le valigie, Facchini? I Facchini hanno cominciato lo sciopero, purtroppo. Da questa parte, prego. Ma chi è? Quella è madame Giulietta de Groschil. Acciaio? No, Marchetta. Oh. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un film degli anni 70, degli anni 80, del 82, Attenti a quei P2, un film che vedeva come glorioso protagonista Bombolo, lo scomparso vero protagonista del film, del cinema politico di quegli anni, che raccontava una vicenda che aveva attraversato in maniera molto cruenta il nostro paese, di cui avevano molto parlato i giornali, di cui c'era stato qualche accenno anche nella cinematografia seria, ma mai un film ne parlò in maniera così esplicita, un film che forse è stato anche dimenticato. Questa mattina ho in studio Giuseppe Sansonna, che è regista di Zemanlandia, critico cinematografico e esperto in B-movie italiani. Trovi che sia ardito il paragone rispetto a un certo guerrigliero giornalismo dei nostri giorni e il B-movie Attenti a quei P2 degli anni 80? No, è molto interessante, anche perché io ho letto un libro di Francesco Pazienza, te lo ricordi, Il faccendiere in foulard, il gagà, certo, del super sismi. Il libro si chiama Il disobbediente. Lui, per dare una fotografia di quella che era la P2 negli anni 80, negli anni 70-80, racconta che Licio Gelli, per esempio, per convincere la gente a entrare nella P2, telefonava a Noschese, ad Alighiero Noschese, e Noschese faceva le voci dei vari politici, Andreotti e compagni, per convincere appunto che... Non era stato mai storicamente accertato, non si sa se fosse una leggenda, fosse vero. C'è questa notizia che Noschese avesse fatto, si fosse prestato a fare questa cosa. Lui la racconta in questo libro, e comunque racconta sempre di servizi segreti molto cialtroneschi, no? Con questi generali che bevevano scotch, che non parlavano, nessuno che parlava inglese, quindi un po' questi B-movie effettivamente davano una fotografia abbastanza fedele. Ecco, questo film di Pingitore, quali erano i punti di contatto con la realtà e qual è stata la fortuna poi di questa pellicola? Era un instant movie, no? Con personaggi come Licio Belli, Pippo Franco che faceva l'onorevole democristiano Forlotti, insomma c'era una sorta di presa, stare sul pezzo, stare sulla notizia e dare una maniera, anche se vuoi molto cialtronesca, però effettivamente per la fotografia di quel contesto era abbastanza fedele. Ecco, è comprensibile che in quegli anni Ottanta non si parlava come oggi di libertà di stampa, di bavaglia giornalisti, di libertà di satira, tutti discorsi che meriterebbero approfondimenti di ben alto spessore, alto livello. Ci fosse così sottostimato un filone di cinematografia che veniva considerato come roba da militari in libera uscita, da adolescenti nel cinema di terzo ordine, oppure ancora non si parlava di cinepanettone, oppure filmacci che andavano così per fare cassetta nelle periferie e non erano mai stati presi sul serio. Beh, c'era la violenza ideologica di un cinema didascalico che doveva comunicare dei messaggi molto precisi, molto alti, molto... questo cinema invece magari coglieva anche involontariamente talvolta degli umori, delle facce, dei volti, delle cialtronerie che invece erano molto, molto fedeli, molto vicine a quelle di questi contesti. Ecco, 800240024, vi ho chiarito il clima, vi ho chiarito il contesto, vi ho chiarito anche il mio punto di vista, che sarei contento questa mattina di confrontare con il vostro. Quanto siete stati spettatori della filmografia di Alvaro Vitali, di Bombolo, di Jimmy il Fenomeno, di Caro Tenuto, di Pippo Franco, di tutta una serie di illuminati protagonisti della nostra storia di cui parleremo questa mattina. Quanto ne siete ancora entusiasti e sostenitori in quei canali della televisione satellitare che ancora li trasmettono a rullo continuo come fosse merce di culto? Quale ricordate che fosse al tempo la percezione generale che andava a vedere questi film? Io mi ricordo qualcosa, andava a vedere con amici in 7, 8, 10 persone per farsi grandi risate, per avere argomenti di facezze poi nel dopo cinema e nelle giornate a venire. Dottor Gasperoni. Sì? Le presento il dottor Bianchi. Piacere. Ispettore dell'assessorato alla sanità. È lui che mi ha rifiutato i ricoveri in ospedale. Mi ha chiesto prima le lenzuola, poi le medicine e per il letto mi ha chiesto la bellezza di 500.000 lire come ticket. Io? Le avevo dato perfino l'incarico di sostituirmi e mi accorgo invece che è un malfattore. Un ladro. Un farabutto. Un delinquente. Delinquente. Un essere ignobile che approfitta della sua posizione per arricchirsi a danno dei poveri ammalati. Dottor Gasperoni, io la licenzio. E si ricordi, per essere un buon medico ci vogliono tre cose. Rigore, rigore, rigore. Hai perso, Gasperoni. E per forza, ma danno tre rigori. Qua entriamo nel vivo in un altro sottogenere del sottogenere in sé. È il B-movie che fa il trash, quindi fa un'emulazione rispetto a un modello che già è alto, è considerato alto rispetto alla percezione, l'autopercezione generale che ha un film B-movie, di un altro genere di commedia leggera. Pierino, medico della Saub, film del 1981, regia di Giuliano Carmineo, che in qualche maniera prende in giro il medico della mutua, Alberto Sordi, il dottor Terzilli, che a sua volta era una satira rispetto a un malcostume della sanità, che mi sembra che non abbia poi mutato molto le sue fattispecie ai tempi nostri. Alvaro Gasperoni, che Alvaro Vitali, è un cialtrone totale, ottiene una laurea in medicina tramite una raccomandazione. E guarda caso in questa raccomandazione si vede un passaggio di buste di cui una è marcata P2, loggia P2. Infatti c'è Garinei che gli dà il comprimario con le orecchie a sventole, il fratello di Garinei, regista teatrale, che gli... Quello faceva la voce di Stan Laurel, sì. nei film, doppiando i film di Stan Leolio. Sì, che scopre che appunto è raccomandato dalla loggia, quindi non può esimersi dall'assumerlo. Ecco, in questo caso Pierino è Alvaro Vitali, che è un personaggio singolare, lo stiamo cercando questa mattina, piacerebbe ascoltarlo, che ha fatto film anche con registi illustri, è stato preso come maschera esemplificativa di un certo sottospecie anche genetica di cialtronismo italiano. Sì, con quel suo volto particolarissimo, con quel doppiamento che aveva anche a 15 anni, credo, insomma. Era sì, sembrava un vecchio già da bambino. Infatti Fellini se ne innamorò, lo prese nel Satiricon e poi gli fece fare questa grande parte in Amarcord, cioè ne colse l'essenza di maschera giullaresca sottoproletaria e poi lo annesse al suo cinema, al suo circo, al grande circo, no? Invece il Pirino Medico della Saub è interessante anche il padre, Mario Caloteruto, no? Questo macellaio che ottiene la laurea del figlio, riesce ad avere un figlio medico, quindi c'è l'affermazione sociale anche, e c'è questo pranzo terrificante in cui sono tutti uomini, mariti, mogli, tutti molto grassi, che si chini su questa carne, insomma un set alla Goya, insomma molto forte come immagine. Sì, è bello perché poi trapelano mille livelli di lettura, se vogliamo. Una società arricchita e opulenta, nata su una speculazione impropria rispetto a un periodo di fame atavica, che rincorrevano e saturavano come fantasma, mangiandosi e sgozzandosi, ingozzandosi delle cose più schifose. Ricordo questo pranzo con tre o quattro televisori accesi, quindi la televisione che già veniva considerata come l'ospite eccelso alle tavole degli italiani, che dettava valore e dettava appunto ispirazioni. Queste donne grasse, schifose, questo macellaio che, avendo ottenuto lo status economico, l'agio economico, voleva anche il riscatto sociale, quindi il figlio medico. Non ci si riesce, perfettamente consapevole da buon commerciante di come gira il mondo, lo fa raccomandare. E quindi Pirino poi farà naturalmente disastri, come disastri c'erano in realtà nella sanità e ci sono. Certo. Era un cinema più che escatologico, era scatologico, cioè sul basso continuo fondamentale delle flatulenze, quindi questa trivialità rablesiana, insomma, degradata. Un Tersilli appunto degradato, in cui c'è questo scorreggio continuo, queste sono le diagnosi. Sì, però diciamo questa fumigazione violenta e nefasta lo ha condannato per sempre a fuggire dall'attenzione della critica, che ha sempre un naso molto raffinato, ha sempre una puzza sotto al naso, diciamoci la verità, che non considera e non guarda nemmeno questo genere, però in realtà sarebbe stato interessante. Non ci siamo spappolati le gonadi per anni sul film impegnato, sul film politico, guardando le cose noiosissime, faticosissime da seguire, paragonabili alla corazzata Potienchi di Fantozzi, andando a ravanare al di là di questo aspetto scatologico che dici tu, probabilmente sarebbero visti dei significati, delle coraggiose letture della società che non si facevano in altri luoghi. Assolutamente, no. Erano dei volti trascinati in questo cinema, quindi coglievano delle essenze, dei volti, dei corpi che descrivevano la società italiana molto bene, secondo me. Andiamo avanti nel settore paramedico. Beh, a delinquenti disgraziati, via qua, no, ma vaffanculo! Non ti vergogni, bambina, a dire queste brutte parole, eh? A dire queste cose a me. A me che sto lavorando, che sto facendo il mio dovere e che magari in questo momento sto anche curando tuo padre. No, l'amico di mamma. Ma lo sai che io ho iniziato a lavorare alle tattue? Mi sto sacrificando solo con 187 malati, mentre tutti gli altri fanno sciopero. 187 bocche a cui dare le pillole, 187 bocche a cui dare lo sciroppo, 374 chiappe a cui fare le iniezioni. E tu dici vaffanculo a me. Ma vaffanculo a te. Allora, questo era Il paramedico, avete riconosciuto Enrico Montesano, un film dell'82, la regia era di Sergio Nasca, narra la storia di un portantino, non aveva una lira, per caso vince una Fiat Argenta e con questa vittoria di questa automobile entrerà in una serie di problemi, gli verrà rubata, ci saranno di mezzo dei terroristi, la moglie è Edwige Fenech, naturalmente, la vera protagonista dell'immaginario erotico italiano di quei vent'anni e la vera responsabile del calo di diottrie endemico della nostra popolazione maschile. Io stesso, che sono astigmatico, ipermetrope e con una serie di problemi, devo la gloria di questa mia menomazione alla Fenech. Andiamo avanti allora, Sansonna, su questo film. Allora, a me interessa molto il fatto che questo filone sanitario, no, che effettivamente va a cogliere delle realtà. Io mi ricordo un racconto di un mio amico infermiere che raccontava che negli anni 70 era molto ambito il turno di notte, perché c'erano questi vecchi infermieri sottratti anche a Regina Celi, alle Patrie Galere, che venivano assunti dalla sanità e di notte, magari scegliamo il turno di notte per poter dormire, magari staccare tutti i segnali per i malati, per avvisare gli infermieri, andavano a staccare preventivamente così potevano dormire tranquilli. Diciamo che le cronache ci hanno fornito degli esempi fulgidi di mal costume infermieristico, che vanno all'estremo delle infermiere che sopprimono i malati a delle infinità di divagazioni su questa, che non a caso Tarantino pone in chiave molto tragica, quando la sposa rimane in coma in tutto quel tempo, gli infermieri l'affittano come semicadavere, oggetto sessuale a depravati. Quindi esiste questa idea del tralasciare ogni aspetto umanistico nella salvaguardia del malato. Ma la commedia italiana, di cui non a caso Tarantino è un grande estimatore, lo coglieva in maniera implacabile. Nessun film impegnato colse in maniera tanto spietata quello che era il mal costume proprio nel sottobosco degli ospedali italiani, delle piccole conventicole che gestivano i malati. Pierino? Sì? Io studio. Tu studi, egli studia. Che tempo è? È tempo perso! Bene, dimmi una parola con tante O. Una parola con tante O, Go! Dove si trova Perugia? Ma professore, è facile, no? Il Perugia si trova in serie C1 nel girone B. Ascolta, Pierino, per quale motivo Muzio Scevola ci bruciò una mano? Per prendere la pensione di guerra. Rispondi, Pierino. Qual è il monte più importante d'Italia? È il monte... il Monte Premi del Totocalcio. Dove si trova la Macedonia? Dentro al frigorifero. In quale battaglia morì l'ammiraglio Nelson? Sicuramente nell'ultima. Dimmi il nome di un eroe mitologico. Ora, siete convinti che il tasso medio dell'alunno sia molto, l'alunno della scuola media italiana sia molto diverso da quello che Pierino torna a scuola, uno con la Q naturalmente, decantava nei suoi film? Siete convinti che la cultura che respira a scuola sia molto diversa da quella legata al calcio, al totocalcio, agli annessi del calcio e via dicendo? Io vi assicuro che la situazione non è molto cambiata. Però dirlo in maniera così spassionata, così crudele, così esplicita, dirlo da una voce reale di un rappresentante di quella stessa categoria, di cui ci teniamo sempre distanti, da cui facciamo finta che non appartenga ai nostri esiti familiari, che però naturalmente basta guardare, oggi mi scrive Fabrizio Intonti, i provini del Grande Fratello, e si vede che è lo stesso risultato. Basta seguire quella che è la spremitura della crème della società italiana, che sono i ragazzi della casa del Grande Fratello, si vede che esattamente il quoziente intellettivo, culturale, il livello di elaborazione del reale è assolutamente identico. Vorrei ringraziare questa mattina il professor Alessandro Chiaffini, che ha messo a disposizione molto gentilmente la sua cineteca sui B-movie. Sono anni che raccoglie, classifica e fa importanti seminari a livelli internazionali su questo genere cinematografico italiano, che naturalmente non viene abbastanza stimato alle nostre latitudini. Alessandro Chiaffini, con una certa diffidenza, ma poi ha ceduto, ha messo a nostra disposizione la sua ricca cineteca. Giuseppe Sansonna, io ho lanciato, il regista cinematografico, ha fatto Zemanlandia, l'ultimo film, ha scritto e parla di cinema, oggi ci aiuta a seguire il filo di B-Movie. Ho lanciato una provocazione al nostro pubblico, sembra che gli italiani improvvisamente non abbiano mai visto questi film. Tu come vedi questa reazione? Ma forse è una reazione così scandalizzata davanti al tema, però no, volevo dire una cosa sul Alvaro Vitali, nel filone scolastico, no? Cioè, lui è una sorta di Franti deforme, mostruoso, una sorta di Frick di Todd Browning, anti-deamicisiano, no? La risata di Franti, ti ricordi il saggio di Eco che parlava di questa risata che demolisce tutto, sgretola tutto l'immaginario composto e sereno creato da De Amicis, a livello pecoreccio, a livello molto basso, ma in realtà molto viscerale. Vitali svolgeva questo ruolo, insomma. Vi farò qualche domandina facile. Secondo voi esistono mammiferi senza denti? Sì. Per esempio? Per esempio mia nonna. Basta! Visto che sei così preparato, sai dirmi chi è l'uomo che ha gridato terra terra e in quale circostanza? L'uomo che ha gridato terra terra? Sì. Mio padre ieri sera mentre mangiava l'insalata. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Lei c'ha un figlio come Alvaro Vitali? Sì, esatto, si chiama Roberto. E allora, lui frequenta la terza media e siccome ha gli esami quest'anno ho deciso di interrogarlo un po', di sapere a che punto fosse la sua preparazione. Allora, andando in geografia, gli dico, sai dov'è l'Afghanistan? E dice, no, non l'abbiamo studiato. Dico, ma sai dov'è il Panama, ad esempio? Dice, no, noi l'America non l'abbiamo ancora studiato. Allora dico, che cosa avete studiato bene? Dice, papà, guarda, l'Europa l'abbiamo studiata alla perfezione. Bene, allora dimmi la capitale della Spagna. Real Madrid. Ma lei si sente responsabile della asinaggine drastica di suo figlio? Beh sì, sì, mi sono sentito in colpa io sinceramente, perché avrei dovuto prepararlo io e l'avrei dovuto più tenere aggiornato su ciò che avviene nel mondo. Quindi se si parla dell'Afghanistan, spiegargli subito dov'è l'Afghanistan, quali sono i problemi di quella regione. Quindi è stato utile questa mattina parlare di questo, la fa mettere di fronte alle sue responsabilità. Tutti ne abbiamo, tutti abbiamo una vita complicata, figuriamoci. Nessuno deve fustigarsi oltre quanto umanamente ognuno di noi ha possibilità di rimettere a posto alcune cose della certo. nostra vita. Senta, lei guardava questi film? Sì, sì, li guardavo. Però non è che è stato in maniera nefasta influenzato, autorizzato a avere gli stessi comportamenti, come diceva prima la nostra ascoltatrice e zelatrice di parrocchia. No, sinceramente li guardavo con molta superficialità, cioè erano simpatici da guardare, ridevi, ma non mi sono mai fatto grandi problemi o ho cercato di trarne... Vabbè, allora guardi, per riportarla alla realtà e farle un regalo... Le diamo un'altra possibilità di salvezza e ascolti un'altra piccola parte di Pierino Torna a Scuola 3. Domani ci sono gli esami e io non voglio sentire storie. Pierino deve essere promosso a tutti i costi. Nella commissione ci sarà anche l'ispettore. E noi dobbiamo fare in modo che Pierino ce la faccia. Ma non lo volete capire che non lo voglio più fra i piedi? Altrimenti rischio di finire in manicomio. Ha ragione. Sono d'accordo. Allora, uno per tutti, tutti per tutti uno. Tutti per uno. Pierluigi ha una storia di famiglia legata alla frequentazione di Alvaro Vitali e company. I triangoli equilaterali venissero perfetti, solo che viene pronto il modello venerdì e lo fondiamo lunedì, mannaggia. No, no, ascoltiamo con attenzione. Mi sono mortificato perché mi ha detto ci teneva tantissimo, ma... Guardi, sta ascoltando tutta Italia, non so di cosa stia parlando, stia attento. Triangoli equilateri. Se lei non vogliamo dare il suo, che ne so, lo lucidiamo e poi lei prende questo qua. Interessantissima telefonata di lavoro. Pierluigi, quando avrà finito, poi ci dirà con chi stava parlando. Lucida triangoli equilateri, visto l'argomento e dato il genere di film, ci viene il brivido. Pierluigi, ci sta ascoltando? Pure. No, lo lasciamo telefonare tranquillamente. Tanto. Anche a noi dispiace moltissimo, ma non vorremmo andare oltre per sì, Luigi? Sì. Sì, mi scusi. No, sta vendendo. Abbiamo sentito parlare di triangoli equilateri di lucidatura. Scusi, siccome l'ha sentita sì. tutta Italia, dica di cosa stava parlando. Faccio l'orafo, sono un vecchio artigiano. Ah, fa l'orafo. Ascolti, sì. Niente, la cosa divertente è che veramente noi con quei film lì si impazziva, ci inventavamo di tutto per poter andare a vedere. Quindi? E quindi non so se lei si ricorda Serafino, quello con Celentano. Sì, non era proprio... No, però... Celentano pretendeva che... comunque di fare un film sociale. Aspetti un attimo. Sansonna, apriamo una parentesi. Serafino e Celentano non può essere considerato di questo genere. No, Celentano... Anche se c'erano alcune attrici note del B-movie. Sì, però appunto era tutta un'altra dimensione, perché Celentano comunque... Aveva una dimensione popolare, però aspirava ad altro. Sì, già cominciava a scarnificare le gonadi con l'ambiente, la natura. Sì, era già un predicatore, sì. profetico, insomma, molto... Andiamo avanti, sì, Pierluigi. Lasciamo a Serafino, non per Celentano quel tipo di film, ma cominciavano a essere quei primi film dove si vedeva qualche sì. seno. E allora era un po' quel filone lì. Addirittura l'aneddoto che volevo raccontare, molto divertente, è che... Mio cugino, non avendo 14 anni, falsificò la pagella di scuola. Tutti l'abbiamo fatto, è vero. Esatto. Portavamo la pagella falsificata. Con altri amici abbiamo fatto tutti la licenza di pesca senza mai comprare una canna. Ah, è vero, sì. Questo è meglio. Tutto bene, cioè, questi aneddoti divertenti per poter vedere i film vietati a 14 anni Comunque è stato un periodo divertente. Sì, è interessante sapere che in quegli anni, e penso lei parli dei primi anni 70, una cosa del genere, il documento d'identità non esisteva, chi ce l'aveva? Quindi era la pagella scolastica e il patentino per andare a pescare, e poi si falsificava naturalmente. Sì, a volte era la tessera dell'oratorio, che per qualcun altro aveva questo valore. Però era proprio un periodo che ci si ingegnava per andare a vedere queste prime scoperture di queste donne, diciamo, no? Beh, abbiamo capito, siamo convinti anche noi che Dio sia buonissimo, quindi ci fa piacere che lei lo ribadisca questa mattina. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Accanto al genere salace del B-movie, quello che in fondo è più legato alla crassa soddisfazione delle nostre pulsioni fescennine, facendo riferimento a una sorta di teatro basato proprio su questo, sul il doppio senso, sull'intrallazzo gastrico-sessuale, sulla cedevolezza degli istinti carnali, invece c'è stata una produzione in Italia di un altro genere di film cosiddetto di serie B, però che ha fortemente ispirato artisti del calibro di Tarantino, ad esempio, sono quelli classificati come genere poliziottesco, in cui si narrano sempre le storie di un'Italia attraversata da un reale clima plumbeo, che è quello tipico degli anni del terrorismo, degli anni della criminalità organizzata, degli anni dell'austerità, degli anni in cui sembrava che il nostro paese piombasse improvvisamente da un momento felice che è iniziato con il boom economico, un momento molto più triste. Beh, sui B-movie dedicati appunto agli eroici poliziotti, ai corrotti poliziotti, ai poliziotti contro tutto e contro tutti, ai poliziotti alla mano un po' dura, è questa seconda parte della nostra classificazione di film che radicalmente hanno determinato il fenomeno culturale su cui tutti ragionano, che è quello dei cinepanettoni. Ma come mai non l'hai fatto fuori quel cornuto di poliziotto? Perché quando lo farò fuori mi dovrà guardare in faccia. Mi dovrà guardare in faccia e tremare di paura. Se deve cacà sotto quello stronzo. A proposito di stronzo, stamattina stavo al cesso e guarda che te ci trovo dentro la tazza. Ma come mai? Perché sono un miracolato io. Sai qua a Santa Chiara là che sputava le margherite? Perché era protetta da Dio. Ma io che so protetto da Satana, cago il piombo, capito? È proprio con questa che voglio sistemare quel giustiziale del cavolo. Mortacci sua, vedrai te. Qua siamo nel sublime poetico, nel surreale. Allora, questo delinquente, la mattina andando in bagno, espelle intestinalmente la pallottola con cui gli avevano sparato, la recupera, la ricalibra e la tiene per uccidere il poliziotto che l'aveva colpito. Di cosa stiamo parlando, Sansone? Stiamo parlando di Roma Mano Armata del 76 di Umberto Lenzi. E qui c'è un personaggio che viene introdotto, che viene direttamente da Notre Dame al quarticciolo, e il gobbo di Thomas Binion, che ha la voce di Ferruccio Amendola, un personaggio che ha il carisma sulfureo di Milian, che ormai ha abbandonato definitivamente i salotti di Bolognini e di Visconti da dandy molle sofisticato, e ha degradato la propria bellezza e proprio essere un sex symbol in questo personaggio. Sì, perché c'è un film strappalacrime terrificante del dopoguerra sul gobbo del quarticciolo. Esatto, no? Di Lizzani. Invece questo è un gobbo molto più popolaresco, molto più virulento, che ha appunto ai tratti carichi di rimmel, sudaticci di un Thomas Binion. Infatti c'era un ascoltatore su Facebook che dice che in realtà Macchè Merli dice Thomas Binion è il vero mito. Qui c'era una contrapposizione, c'erano entrambi in questo film. Poi mi viene anche segnalato un sito, Pollanet Squad, devoti al poliziesco all'italiana. È un sito di appassionati, addirittura hanno fatto le magliette con la Giulia Super, c'è tutto il database, fanno gli incontri, quindi esiste una sorta di consenso sotterraneo a quello che stiamo parlando. Federico, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Io sono del 70, perciò abbastanza giovane per questo genere poliziottesco, però... 71 ancora... però è l'anno della Giulia 1006 Super, nasce insieme alla Giulia, che è il mezzo di trasporto... Sì, quello è vero, però ero abbastanza piccolo. Quello che lei prima ha ricordato... un campionario umano con i capelli lunghi, maglioni attillati e così via, che non si vede più adesso. Un'altra cosa che esisteva prima e che non si vede più sono molti scorci di città. Ah, è vero, c'ha ragione, le città cambiate. Esatto, cioè io li rivedo adesso, ho visto recentemente per esempio Milano Calibro 9 proprio, era abbastanza incredibile vedere Moschin sulla sua mini girare Milano per Milano. Sai cosa ho notato io guardando anche un film in cui c'era Tognazzi che fa il magistrato e quindi era incorruttibile, girava con un ciao, che non c'erano motorini nelle città, non c'erano motociclette. Vero, allora la motocicletta era considerata il mezzo di trasporto dell'operaio, del povero, quindi in città non c'erano gli avvocati, gli amministratori di condominio, gli agenti immobiliari, i fighetti, fighette, giravano col motorino, andavano tutti con le automobili. Sì, traffico zero e angoli ormai dimenticati, cioè anche vedere Piazza San Babila e confrontarla con quella di adesso. Io parlo per Milano, ma credo che sia così anche per le altre città. Sì, in San Babila Orivente, che era stato citato prima, che non è un poliziottesco, ma è contiguo come genere, c'era questa San Babila semideserta, dove sembra ci fosse solo da una parte i San Babilini, dall'altra parte dei rari esempi di fauna sinistrese dei tempi, e non c'era nessun altro. Non c'è uno straniero. Ecco, non c'è uno straniero per strada. Altra cosa che si nota. Tutti italiani. Si vedeva. Questo, sì. È molto cambiato. C'erano Sanzon. I Navigli, per esempio, in Milano che avevano nome, i Navigli, che era una zona iperpopolare, e quindi che oggi invece sono una zona piena di locali molto chic, così come Trastevere a Roma, le stesse dinamiche, i centri storici che sono diventati invece iper chic. È il regno del fighettume arricciolato i Navigli oggi, invece allora era un quartiere popolare normale. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io avete parlato della musica, io sono, perché penso di aver suonato l'organo Hammond in quasi tutti quei film di cui avete parlato. Lei è un artista che ha partecipato alla produzione? Sì. Oggi faccio il concertista, mi chiamo Giorgio Carnini, però mi viene da sorridere perché è un momento di molta tenerezza ricordare queste cose che facevamo in sala. Ecco, ci dia qualche inedito sulla produzione che ci interessa molto. Guardi, molte cose di queste, molte musiche di queste produzioni le facevamo direttamente in sala, il compositore veniva con una traccia e noi suonavamo, eravamo una ritmica e suonavamo tutto durante tutto il giorno inventandoci noi le cose che poi venivano firmate da molti compositori, alcuni portavano tutto scritto, ma diciamo che era un'improvvisazione. Sì, si faceva un'improvvisazione su temi jazz, no? E vedevamo il filmato e molte volte c'erano dei nudi, delle cose, allora aspettavamo quei filmati per vedere, eravamo molto giovani allora. Quindi, e in quel caso le mani le tenevate sulla tastiera oppure c'era un momento di pausa musicale? No, guardi, dovevamo suonare ed era bello perché non si butta via niente, anche se molte cose sono andate nel cestino. Le ricorda perché... in particolare qualche film che ha sonorizzato di quelli che abbiamo a disposizione? Così se mando lo spezzone e vediamo se riconosce la musica. Guardi, film più che i nomi degli autori, lì c'era Bacalov, per esempio, scriveva tutto, era molto, molto, siamo amici tra l'altro, era molto, molto ligio, ma molti compositori venivano, non farò i nomi, con una traccia e eravamo noi i veri compositori, capito? Beh, questo è interessante, un retroscena che veramente ci interessa. Diamo un assaggio musicale così vediamo se riconosce qualche brano di quelli che ha fatto. L'uomo da uccidere è un certo Luca Canali, un magnaccia di Milano. È stato picciotto nella famiglia di Don Vito Tressoldi, ma non valeva granché. Infatti Don Vito dopo un anno o due l'ha scaricato ed è finito nella bassa prostituzione. Ora ha tentato il colpo gobbo. Voi dovete ucciderlo in malo modo, platealmente, in maniera che tutta Milano ne parli, l'Italia intera ne parli. Si deve sapere che due americani sono venuti da New York, hanno cercato Luca Canali, lo hanno trovato e lo hanno schiacciato come un pidocchio. Pensa avessero avuto materiale pulsante come il Brendone, come tutte le cose stanno succedendo oggi questi autori. Invece vedo che era piuttosto limitato poi l'orizzonte, meravigliosamente variegato nei personaggi, ma erano tre o quattro stereotipi. Sì, anche se questo poi Mario Adorf e Luca Canali sarebbe un protettore di prostitute che tenta il colpo gobbo di andare contro il sistema e arrivano due sicari dall'America che hanno uno al volto gommoso e plastificato di Henry Silva, che è una statua a Sira. E poi c'è Woody Strud che è il nero, è direttamente dai set di John Ford, arrivano come due cliché americani, arrivano come sicari per ridurlo ai minimi termini. C'è anche uno scontro culturale percepibile rispetto alla perizia e la spietatezza cinica e tecnica nel crimine degli stranieri, gli italiani poi erano sempre raffazzonati anche nella crudeltà. Assolutamente, c'era questa versione appunto più dozzinale, più una dimensione umana, anche questa in quel libro sempre di Pazienza che ti citavo l'altra volta, Il faccendiere del Sismi, parla sempre di queste di questa polizia che assomiglia molto a questi film, che inadeguata forse in per certi aspetti, no? Molto, molto cheap, molto goffa. Ci fosse qualche poliziotto in ascolto, ci piacerebbe che ci riferisse, se qualcuno che ha esperienza, quello che era il rapporto che avevano loro, che in realtà operavano nelle piazze in quel periodo, con la rappresentazione che avevano. Oggi fare il poliziotto è strafigo, perché la rappresentazione dei poliziotti è iper efficiente, iper scientifica. Allora c'erano anche degli aspetti abbastanza cialtroneschi, volevo sapere come la vivessero. Fedele. Buongiorno, io chiamo da Verona. Bravo. Città un po' più provinciale. E io mi ricordo, io sono del 61, noi andavamo al cinema a vedere, la mia generazione penso li conosca a memoria, però poi avevano nel senso un fatto particolare, proprio vicino all'arena c'era stata una rapina col morto, e noi corremmo, perché una volta era un evento, non è che si da Verona soprattutto, e mi ricordo che è durato parecchio sta visione del morto per terra con gli spari, e sembrava veramente il film, c'era il poliziotto figo, quello improvviso con la pistola dietro, le pistole per terra, è arrivato quello i bianchi, cioè sembrava veramente la caricatura di un film di fronte a un fatto reale, perché a Piazza San Nicolò, qualche veronese se lo ricorderà ancora, nel 76-77 l'anno non riesco a collegarlo, e sembrava veramente un film. L'unica cosa che risultava a noi fastidiosa, che sì, qualcuno magari, era vedere questo morto per terra supino su un'Alfa. Ah, sull'Alfa, è chiaro. Sì. Sì, perché era anche proprio... la Malavita usava le Alfa, perché sia sì, poliziotto sì, avevano, era, le avevano era, magari era color macchina, vinaccia, color verde era bottiglia. Era proprio di criminale incallito l'Alfa, era proprio, era uguale alla polizia. Lei non ricorda anche sconti cinematografici, era proprio Alfa con Alfa le più delle volte. Sì, anche andava molto il colorino beige in quel periodo, che è un colore che andava veramente tanto. L'Alfa beige... È stato un fatto che i sedicenni, i quindicenni, mi ricordo, si andava a vedere, vieni che c'è il morto, Piazza San Nicolò, tutti a vedere. Però lei si rende conto che l'unico esempio per confrontare una realtà cruda, che allora si conosceva poco, era questi film. Voi vedete il teatro del delitto perché l'avete visto rappresentato in un film, con quello col gessetto che fa la sagoma, quello coi guanti, il magistrato che arriva. Chi mai ne aveva avuto notizia? Mi decidi a pagare o vanno a bevermi? Ma come faccio? Sono solo. Ora c'è solo, quanto siamo cattivi però. Io sono l'esattore. Senta, la prego, io quella cifra non la posso pagare. Bene. Bene, non importa. Cos'è questo Piazza Navona 38, vero? Ti devo mandare gli operai, tu capisci, no? Giuseppe Sansone, vuoi andare per vermi? Puoi domandarti gli operai, la cattiva, dei personaggi che non esistevano nella storia del cinema italiano. Sì, sì, c'è una Dark Lady ferocissima che è una delle protagoniste del grande racket di Castellari. Ecco, Castellari è uno di quelli adorati proprio da Tarantino. Tarantino ne ha fatto un feticcio. Il suo ultimo film è un rifacimento di un film di Castellari, quel maledetto Treno Brigante, certo. Bastardi senza gloria, era un film di Castellari, un Macaroni Combat. Qui nel grande racket c'è un'orgia di ralenti, di enfasi pura, di un ritmo, violenza che chiama semplicemente altra violenza in una superficie, un grado zero della scrittura. Sì, allora c'era anche una effettistica cinematografica molto naif, questi schizzi di sangue color rosso rubino, oggi certo, il sangue è nerastro e schizza in maniera diversa, allora si dice che chiaramente era polpa, salsa di pomodoro per come usciva, e ne mettano tanto per far vedere che era tanto forte l'impatto violento. Non c'erano RIS a indagare, non si indagava sulle tracce ematiche, cioè il sangue era l'artificio puro, l'esplosione pura, insomma. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Non avvicinatevi! Con la mazzo! Fermi! Guardate che facciamo sul serio! Dannati bastardi! Andate all'inferno! Dovete andarvene subito, figli di puttana! Volete che la sgozzi? È questo che volete? Vi prego! Questo era Cani arrabbiati, delle scene sempre molto truci. Cominciava ad entrare anche la componente sadosessuale, giustificata dal contesto criminale. Io ricordo che i criminali erano sempre molto particolari, vederli oggi fa sorridere, erano sempre dei maglioncini attillatissimi, delle camicie con dei grossi colli, avevano i jeans scampanati, erano con dei capoccioni grossissimi, perché l'uomo di quegli anni era un uomo tisico, era un uomo dal torace inesistente, dalle chiappe opime, basso, tozzo, con un grande capoccione, perché andavano di moda i capelli lunghi. Ecco, i criminali erano l'apoteosi della burineria, che rappresentava il modello estetico più percorribile in quegli anni. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Qual è l'idolo fulgido al centro della sua attenzione del film poliziottesco? Io ricordo con simpatia, ogni tanto li ridanno questi TV locali. Sì, degli illuminati canali satellitari. E ce n'è di tutte, diciamo, per tutte le espressioni. Sì, ma lei chi è che ricorda? Chi era che giganteggiava al centro di tutti questi film? Lo dica. L'attore? Certo. A me, per esempio, mi piaceva tanto Maurizio Merli. Ecco, ci siamo alzati in piedi. Maurizio Merli era il commissario per eccellenza. Il commissario buono e cattivo nello stesso tempo, perché a me, io mi ricordo tutti questi film, Napoli spara, Roma a mano armata, Milano, San Babilo, morti inutili, me li sono guardati tutti. E quello non era tanto poliziottesco, Milano, San Babilo, morti. No, era un po' fondo politico. Era fondo politico, mostrava i San Babilini che ammazzano a coltellate un ragazzo solo perché aveva l'eschimo e che in realtà avevano delle coperture, più a sfondo politico. In certo senso hanno rivisto un pochino le città, quello che dopo... Però toccava il sublime nella scena del fascista che non riesce a accoppiarsi con la sua fidanzata e usa il manganello, devo dire che toccavano delle vette sublimi. Lo ricordi, Sansone? Come no, certo. Beh, andiamo avanti allora, Marco, nel suo ricordo. Io mi ricordo questi film che all'epoca io ero un bambino, io sono del 64, sicché... C'ha 10 anni meno di me, tanto per cominciare. Sì, però ecco, ti facevano vedere un attimino quello che non è che si seguissero tanti giornali, diciamo noi ragazzini all'epoca, sicché un attimino ci facevamo abbindolare da quello che erano. Sostituivano la cronaca. Sì, perché io vivevo in un paesino, siamo compaesani, io sono di Umbro, anch'io sono di Foligno. Ah, Foligno, Foligno è il centro del mondo, però è tutto un altro mondo. Però non è che succedesse un granché, no, sicché vedevamo questi film per Milano, questo si dice Roma. Foligno si dice che è lo centro del mondo, perché è il centro di Foligno, il bar dove c'è il biliardo, il boccino. Il bar è Sassovivo, il birillo rosso del biliardo. Quindi lei pensa una popolazione umana che vive concentrata sul birillino rosso del bar Sassovivo, non ha che la guardarsi la pancia quando arriva Maurizio Merli, è un grande evento. Sicché questi film a me mi hanno fatto un attimino conoscere quello, io oggi vivo a Firenze, ma quello che era un attimino le città, le vedevamo un attimino... Non come... dica più attimino, sennò devo segarla, mi scusi, è proibito. No, non mi segui. La mia religione lo proibisce. Va bene, comunque io li riguardo sempre abbastanza con volentieri. Grande piacere, grazie. Sì, Marco. Sì, sì. Pronto? Consolato d'Albania, ufficio passaporti, desidera? E lei è la signora Maria Enver? Sì, sono io. È nata proprio in Albania, vero? Bene, lei è sposata con un certo Benito Giua, vero? Sì, perché? Perché abbiamo rapito Benito Giua, e allora signor Soccazzi sua. Naturalmente lo sceneggiatore che ha pensato il nome di Benito Giua era tutto finalizzato alla rima della telefonata del ricatto. Lo sceneggiatore era lo stesso Thomas Milner, che aveva messo una clausola nel contratto che poteva modificare la sceneggiatura e intervenire sul montaggio. Infatti Lenzi era disperato, quindi anticiperà tanta monnezza a venire con queste battute, sempre riprendendo il personaggio del Gobbo, che era appunto quello di Roma a mano armata nel 77. È una sorta di Elephant Man smodato e pecoreccio, cioè che fa leva sulla sua difformità un po' patetica e quindi che giustifica anche il suo essere delinquente, ma dal cuore d'oro in fondo. È un tema ripreso, cioè la natura è stata maligna e matrigna con lui e quindi giustamente è crudele e cattivo, ma in realtà potrebbe essere buono sotto quella mostra, quel fatto orribile. Allora, Rossano, buongiorno. Buongiorno a lei. So di averle provocato un dolore, ma sono qui anche per espiare e per giustificarmi. Allora, caro Nicoletti, lei è dissacratore in genere e quindi questo ormai... Ma ho toccato ciò che lei è più di sacro, l'ho capito. Guardi che le parlo non dal fista, perché io sono lancista, nella mia vita ho avuto sempre Lancia, attualmente ho tutta una serie di vetture Lancia. E oggi è la stessa cosa più o meno. Però la Giulia 1600 Super, caro Nicoletti, è una macchina superba. No, lei non può dissacrarla dicendo è uno scatolone, poca aerodinamica, un bidone, eccetera, eccetera. deve considerare il periodo in cui è stata fatta, con chi si confrontava e tutte le gare di velocità, di regolarità, di lunga durata che ha vinto, che ha massacrato tutti in Europa. E si confrontava con le Ford Taunus, con le Opel Record, ma con delle schifezze di macchina. Ecco, quindi. Allora, resti un attimo in religioso ascolto. Attenzione a tutte le volanti in servizio sull'autostrada. Intercettare e bloccare auto Mercedes nera targa Vaticano con 4 persone a bordo. Attenzione, sono armate e pericolose. In caso di intercettazione, cercare di spingerli su strade secondarie. Intervenire direttamente solo in caso di estrema necessità. Sfonda la barriera! Sfonda! Ecco, per in qualche maniera procurarmi la sua benevolenza, le ho ridato il canto della Giulia Super. E, onestamente, con l'occhio... Io l'ho vissuto, io non so quanti anni abbia lei. Io mi ricordo quel tempo veniva considerata la Giulia, era la macchina per eccellenza, non si comprava il Mercedes, si comprava la Giulia. Che la Giulia era anche un po' scavezzacollo, anche se vendeva aspirapolvere. La Giulia aveva il plaid piegato nel sedile posteriore, perché era anche usata per uso promiscuo. Chi aveva la Giulia, naturalmente, aveva un amico maniaco di Giulie che girava con i vasettini di colore e la ritoccava col pennellino ogni volta qualcuno gliela graffiava. Quindi potrei intrattenerla. Mi ricordo un viaggio Roma-Napoli con una Giulia che rimase bloccata sulla terza e arrivammo da Napoli a Roma sempre in terza e ai caselli dell'autostrada si ripartiva sfrizionando, quindi potrei raccontarle la storia della Giulia, però onestamente vederle allora, ci sono macchine che hanno fatto la storia del cinema on the road, del cinema poliziottesco, del cinema straniero, che hanno ancora delle linee che ci danno delle emozioni. La Giulia vista con gli occhi di oggi un po' una scatoletta sembra, diciamo la verità, no? Ma io, non la penso. È come l'estetica perché... femminile, ognuno ha i suoi gusti, chi gli piace un culone, no, chi gli piace... No, le ripeto, io sono lancista, quindi addirittura ho tutta un'idea diversa di linee, di macchina. Però la Giulia è, in particolare poi la 1006 con le varie versioni, quelle della polizia, alle volanti, eccetera... Allora diciamo la Giulietta Coupé che avevano i corpi speciali qualche anno prima, quella è una grande macchina. Ma la Giulietta è ancora più mitica. Io, ecco, recentemente ho preso la Giulietta Spider, ma perché è mitica? Perché ha fatto la storia dell'automobile, è una delle Spider più belle al mondo. Però se oggi ci va in giro fa ridere. La Giulietta 1006 è Giulia 1006, insomma. Cioè lei passa sotto un SUV senza che nemmeno lui se ne accorga. Però era una bella macchia. La saluto. Dovevi dire qualcosa, Sansone? No, il feticismo così accanito mi commuove sempre, quando sono molto commosso dalla Paolo da Pisa, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno, sì, la ringrazio per la trasmissione perché tocca un capitolo della mia infanzia. Io sono del 63, quindi ho 10 anni meno di lei, se non è la sua. Sì, più o meno, sì. Purtroppo. Ecco, quegli anni in cui usciva la Polizia Ringrazio, non ricordo perfettamente che erano 9 anni, nei nostri immaginari di bambini noi eravamo convinti che ci aspettasse un mondo fatto di delinquenza, di scippi, di rapimenti, c'era il sequestro della Sutter. Che infatti anni, qualcosa di simile per... è anche accaduto, diciamo la verità, cioè, sta tuttora accadendo. Con i genitori che ci dicevano il mondo non è più come prima c'era la pace, si girava nei giardini, eccetera. Quindi noi avevamo un immaginario di quello che accadeva, di bombe, di stragi, di rapine, ripeto, che ci impauriva. E quindi? E quindi questo ha portato alla mia generazione, o da una parte all'altra, ha influito anche la nostra formazione culturale e politica. Io ho un amore per le forze dell'ordine che deriva di quegli anni, il fatto del poliziotto che potrebbe lavorare ma non lo fanno lavorare, cioè una visione banale se vogliamo, ma che certamente fa lo sfondo a tutto quello che è stato il mio percorso culturale. Sì, ma c'è sempre... È un'idea che perdura, permane, ne abbiamo un'infinità di prove anche nell'attualità più stretta, in cui molte volte non si capisce perché certe persone siano messe in difficoltà o perché non gli sia dato modo di muoversi o perché ci sia un sistema vischioso che non dà loro gli strumenti per muoversi come vorrebbero. Grazie, chiudiamo con Andrea. Andrea. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletti, mi chiamo Andrea. Sì, già detto. Sì, bene. E praticamente... Ricordando quei film è un ricordo, sono del 69, quindi a ripensarci adesso mi viene da pensare che la gente qui a quei tempi erano tutti un po' pazzi e rispecchiavano fedelmente tutto quello che si vedeva. Beh, poi è venuta fuori dalle sue parti la banda del Brenta, non è che poi erano tanto lontani da una realtà che poi ha vissuto nella sua terra. Sentiamo per finire Paolo, c'è ancora Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. È un ricordo di ragazzino, io sono del 59, a Genova avevano girato uno di questi poliziotteschi e proprio vicino a casa mia avevano girato alcune scene, e quindi vedere, ricordarsi questi che preparavano le sacchettine col sangue, che poi le facevano esplodere, i colpi di pistola, un immaginario che per noi era una cosa assolutamente fantastica, io me la ricordo. Infatti siete cresciuti tutti come bravi ragazzi. La sigla che mi sta aggredendo, dice dobbiamo chiudere. Devo fare un ringraziamento particolare a Giuseppe Sansonna che ci segue in questo percorso difficile ma di grande soddisfazione, a Fabrizio Intonti e soprattutto al professor Alessandro Chiappini che anche oggi ci ha aperto il suo misterioso archivio dei B-Movie che ancora è fecondo di sorprese che vi proporremo quanto prima. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.